i tamburi su chi comanda. Battono i tamburi su chi comanda. Chi comanda, chi comanda. E te lo sfide, saranno. È la voce di Obama che ti comanda. Se la crisi economica ti sbilancia, sono estinto come un panda tra gli uomini in gamba. Sono figlio dei motori degli anni Ottanta. Sui muri manifesti di propaganda, una rivolta in piazza con tutta la banda. Siamo noi padroni della tua locanda. Occupiamo gli spazi, linciamo i caramba. Pezzo di merda che tira bamba. Tu mi mangi le ossa come un piranha. Io ti scavo la fossa con la mia vanga. Poi ti sfondo le orecchie con tatanga. Sono un uomo di gesso come a Pompei. Mi taglio la barba e cambio faccia. Perché tutti affrontiamo la fase gay. Non voglio che mio figlio sia messo all'asta. Su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda. È la voce del papa che ti comanda. Sono come un soldato, ho un colpo in canna. Dove dormi tu? Dormi sull'ovata. Cosa pensi di cambiare? Togli la cravatta. Sei un mercante come a Samarcanda. Dove in Parlamento gira busta bianca, bianca come la bandiera macchiata che ingrassa. Se tu perdi sangue mettiti un Tampax. No, no, no, sono Malta bastarda. La mia libertà non si discute, punto e basta. Non vale una lira la tua corazza. Se prendo di mira la tua ragazza. Io non mi sento più parte di questo. Io non mi sento più parte del resto. Come nella musica ho cambiato mille generi, perché sono diverso dalla massa. Su chi comanda, pure su chi comanda, su chi comanda, pure su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, pure su chi comanda, su chi comanda, pure su chi comanda, su chi comanda, pure su chi comanda, su chi comanda, pure su chi comanda, su chi comanda, pure su chi comanda, su chi comanda. Sfoto Fanta, poi ti lancio addosso chili di mostarda. Chiamami Pinocchio, sono un gobbo di legno che adesso parla. Ti saboto la pelle da salamandra. Sovverto una zoppa, città fantasma, cucendo la toppa del tuo marasma. La mia vita è una bomba che scoppia in banca. Sono fuori da tutti i sistemi standard. Graffio le unghie sulla lavagna fino al boom della guerra che muore all'alba. È un'altra tappa come da programma. Come in Doom non c'è niente che mi disarma. Nato per lottare, non trasmetto le emozioni con le mie parole ma solamente rabbia. Io sono un gorilla nella gabbia. Adesso è la bestia che ti comanda. Su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda, su chi comanda.